oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione. Buongiorno Willy, in regia, e buongiorno Francesco che è qua a fianco a me. Riparte un'altra puntata. Buondì. Sì, non ti ho dato neanche il tempo di rispondere. No, vabbè. Io rispondo, io poi insisto. Ecco. Allora insisto anch'io, buongiorno. Buongiorno. Riparte la quarta puntata di Oltre la crisi parliamone. Noi come sempre abbiamo deciso di impostare queste puntate partendo da fatti che accadono, per poi ragionare su quello che è il discorso della perdita e come eventualmente superarla. Nelle puntate scorse abbiamo parlato di immigrazione, di perdite di identità, addirittura nella puntata scorsa siamo sfociati anche sulla questione, abbiamo toccato anche la questione adolescenza, e oggi purtroppo ci tocca la notizia di cronaca. Lo sapete tutti, un ragazzo di 21 anni, un ragazzo gay, si è gettato da un palazzo a Roma nei giorni scorsi, e vorrei proprio partire da qui, Francesco, perché in questi giorni tra l'altro è in corso anche Gender Bender qui a Bologna e Soggettiva, e sono due festival e due momenti di confronto molto importanti, e devo dire che lo stuolo di polemiche non si è fatto attendere, soprattutto per quanto riguarda gli spettacoli teatrali. Ma andiamo con ordine, intanto partiamo dall'avvenimento. Ma direi che l'avvenimento dal punto di vista della crisi ha due dimensioni. Da una parte la dimensione della reazione di una persona alla fobia sociale, a una fobia sociale che si chiama omofobia, e dall'altra parte è una situazione di crisi che sfocia nella togliersi la vita, nel suicidio. Quindi io la prima cosa che direi per cercare di riflettere su questo punto è che bisognerebbe cercare di, quando succede un caso di questo genere, di non fare quell'operazione di semplificazione che si fa di solito, consistente nel prendere il fattore di crisi più importante in quel momento, isolarlo e dimenticare che nel caso particolare ci sono anche altri aspetti di una crisi. Cioè non è per esempio vero che tutti gli omosessuali fatti oggetto di discriminazione si suicidano. Quindi vorrei intanto partire da questa distinzione. Siamo di fronte a un caso molto più grave per due motivi. Perché siamo di fronte a una situazione in cui una persona che viene fatta oggetto di discriminazione per la sua scelta sessuale è un certo tipo particolare di persona, evidentemente con degli altri problemi, è molto fragile. Per cui quella discriminazione, e da questo punto di vista è importantissimo questo, perché noi ci dobbiamo rendere conto che certe discriminazioni non sono così, come dire, certe volte si minimizza dicendo vabbè, tu dici che è gay uno, che cosa c'è da fare, cioè, sono comportamenti macisti, simpatici, così eccetera. No, bisogna sapere che in certe persone, per certe persone possono essere atteggiamenti gravissimi, perché certe persone hanno vulnerabilità tali che si toccano certe corde, per cui si può addirittura determinare il fatto che una persona si toglie la vita. Quindi noi siamo di fronte a un problema che dobbiamo affrontare, secondo me, da due punti di vista. Da una parte c'è la crisi di chi, circondato da una stigmatizzazione sociale, come l'omosessuale, una minoranza, no? Che viene in qualche modo circondata da una maggioranza culturale che la giudica moralmente in un certo modo, entrando in crisi per questo, e dall'altra parte abbiamo invece la problematica del suicidio, che in questo caso si associa alla prima, e però sono due dimensioni che bisogna affrontare separatamente. nelle puntate scorse, quando si parlava di immigrazione così, ragionavamo sul fatto che sarebbe importante cominciare dai bambini per poi creare col tempo, come dicevi tu, perché ci vuole tempo comunque per permeare la cultura e la cultura sociale, soprattutto di nuovi valori e nuovi concetti, o se non nuovi comunque proporli come preponderanti. E proprio ieri sera è andato in scena al Testoni Rosa Spina, una favola di Emma Dante dove il principe è una principessa e la protagonista ovviamente è una femmina, e si sono scatenate le polemiche, le proteste, soprattutto le rigidità. E proprio di stamattina è un post, diciamo, su Facebook di Vincenzo Branà, che è il presidente del Cassero, e dice: guardate che i vostri bimbi e le vostre bimbe il barista l'hanno già sgamato da mo', perciò non hanno nessun problema con Rosa Spina, siete voi che avete passato troppo tempo a rintronarvi su Rai 1 con la Bianchetti. E poi continua: e avete perso ogni curiosità per il mondo, tanto da inscenare proteste anti tutto quello che non avete fatto mai nemmeno la fatica di conoscere. Ecco, la fatica di conoscere, appunto, perché comunque conoscere è un impegno, richiede un impegno, uno sforzo. Certo, questo tu mi inviti da un certo punto di vista a nozze gay. Grande. A nozze gay. Nel senso che, secondo me, appunto, quando si evoca l'educazione e si evocano i bambini, bisogna sapere che cosa accade nell'infanzia. Allora, il bambino, bisogna sapere, fino a un certo punto, altro che gay, Freud diceva il bambino è un perverso polimorfo, cioè gode da tutte le parti. Il bambino gode con la bocca, gode con l'ano, gode da tutte le parti, gode con la parola, gode con tutto il corpo. Beato lui! È un perverso polimorfo. Sì. Il problema dell'educazione è, rispetto alla scelta sessuale, è precisamente il problema di tutta una cultura. Cioè c'è tutta una cultura che è la nostra, che è ancora massicciamente così, che di fronte al bambino che è un perverso polimorfo, non vuole giustamente che resti un perverso polimorfo, perché questo è contrario ad ogni ordine sociale. Se noi restassimo perversi polimorfi, non sarebbe possibile nessun ordine sociale, neanche quello del comunismo realizzato o neanche quello del paradiso. Non sarebbe possibile nessun ordine. Allora ogni società cerca di educare i suoi bambini alla prevalenza di una certa sessualità. E a quale sessualità veniamo educati noi nella nostra cultura in grande maggioranza? A una sessualità genitale, che è la sessualità che favorisce un certo tipo di ordine, l'ordine basato sulla famiglia. Sulla famiglia che, come dice giustamente la Chiesa, ha un padre, una madre, un padre maschio, una madre femmina e dei figli. Perché quella è la famiglia del nostro ordine, quello rispetto al quale noi educhiamo, per cui educhiamo i bambini alla prevalenza della sessualità genitale, d'accordo? E nella maggioranza dei casi ci riusciamo a fare questo. Quando ci sono circostanze esistenziali, rapporti all'interno della famiglia del bambino, sensibilità particolari del bambino, esperienze particolari del bambino, che ostacolano questo tipo di educazione, noi possiamo, la scelta sessuale può essere diversa, d'accordo? Ora, noi dovremmo prevedere che nella nostra cultura ci possano convivere diversi ordini di socialità, quelli più adatti alla sessualità genitale e quelli più adatti ad altri tipi di sessualità, anche perché uno non ha nessuna colpa nello scegliere. Se non si riesce ad educarlo alla sessualità genitale per delle valide ragioni, una persona, bisogna consentirgli, proprio perché c'è una responsabilità, non si è riusciti, bisogna consentirgli di fare un'altra scelta sessuale. Quindi non è un problema etico, non è un problema, non c'entra niente l'etica, non c'entra assolutamente niente. Si tratta semplicemente di fare posto in una cultura ad altre modalità di gestire le relazioni interpersonali. Una cultura dovrebbe essere una cultura plurale. Ora questo però, siccome in una cultura sceglie massicciamente una certa via, per esempio la nostra continua a scegliere la via della genitalità perché è quella che favorisce più la generatività, il fare i figli, così eccetera, perché è questa la ragione, è una cultura poi biologica da un certo punto di vista. Questa cultura qui dovrebbe preoccuparsi di quelli che non riesce a integrare in questo tipo di ordine che vuole promuovere e aiutarli a trovare posto nella società anche loro. In realtà noi, siccome questo comporterebbe un grande sforzo culturale, un enorme sforzo culturale di educazione di tutti, noi non lo facciamo. Dopodiché c'è un conflitto tra le maggioranze e le minoranze e inevitabilmente le maggioranze tendono a imporsi sulle minoranze. Per fortuna le epoche cambiano e non è più l'epoca in cui era talmente minoritario e talmente da rifiutare l'omosessualità che bisognava metterli in manicomio, come è stato. Tu hai toccato, un concetto che mi preme molto, la colpa. O se vogliamo il senso di colpa, perché si usa proprio questo strumento per far sentire le persone che appunto non si adeguano a questo tipo di percorso culturale che è quello dominante, si utilizza il senso di colpa come strumento per reprimere in un qualche modo, è una forma di repressione, una sorta di manganello emotivo. E vorrei parlare di questo proprio. Sì, questo è un problema molto, molto complicato perché spesso, a me nella mia esperienza professionale, mi capita di vedere persone che sono omosessuali, non mi capita solo di vedere eterosessuali, no? E che, persone per esempio che riferiscono di aver avuto per anni un senso di colpa, aver sentito un senso di colpa, sia per quello che dici tu, perché qualcuno, come dire, gliel'ha fatto sentire incolpandoli di questa scelta, sia indipendentemente da questo. Per esempio, tante persone sanno che ai genitori a cui vogliono bene farebbe un gran male sapere che sono omosessuali e si sentono in colpa per questo. Cioè, certe volte la colpa non è relativa semplicemente a un processo di etichettamento sociale, di esclusione, di giudizio morale, eccetera. La colpa può derivare anche da una buona ragione. Ora, qui infatti il problema sono quelle colpe che, se si considera la ragione positiva per cui sorgono, possono poi essere piano piano superate. Per esempio, tu puoi scoprire che il tuo genitore è disposto ad aiutarti a superare il suo senso di colpa se tu gli dici che ti dispiace tutto questo, che è perché ti dispiace per il male che eventualmente gli faresti. Cioè, si tratta di gestire, che è il modo in cui poi nella storia degli omosessuali viene gestito il momento in cui si comunica la scelta omosessuale. Per esempio, ci sono quelli che lo comunicano violentemente, ci sono quelli che non riescono a comunicarlo e ci sono quelli che riescono a comunicarlo, cioè che riescono a dire a quegli altri che vorrebbero che loro fossero diversi che non c'è niente di male a essere diversi e che però si rendono conto del dispiacere che possono dare. Dopodiché si innesca un processo. Io ho visto per esempio omosessuali con le loro mamme che non si aspettavano assolutamente e che vanno in crisi. A proposito di crisi, c'è la crisi delle mamme o dei padri degli omosessuali, che quando scoprono che hanno un figlio omosessuale sembra che sia. Adesso, per fortuna, l'altro giorno parlavo con una mia conoscente che aspetta un figlio e diceva: speriamo, è maschio. E lei ha detto: speriamo che sia omosessuale. Sì, ci sta. Guardate che non l'avevo mai sentito. Può capitare anche l'opposto. Probabilmente questa tua conoscente nella testimonianza può capitare anche una sorta di affezione, di protezione incredibile. Io conosco amiche e amici omosessuali che hanno rapporti con la propria famiglia intensissimi, proprio perché nasce un desiderio: è il figlio, cioè la cosa più preziosa che ho, perché il mondo gli vuole male, che del resto lui ha dei dei sentimenti normalissimi, ama, soffre, pensa, vive come tutti gli altri, e quindi nasce un senso di protezione incredibile. Io conosco omosessuali, sia uomini che donne, che hanno dei rapporti molto molto intensi con la propria famiglia proprio per questo motivo, perché li vedono per portarli a una vita come del resto è e deve essere normale. Certo, però non è facile, bisogna non sottacere però una dimensione che solitamente viene sottaciuta, e cioè che a essere omosessuali si hanno parecchi problemi. Non è così facile essere felici da omosessuali. Cioè questa idea che essere omosessuali è uguale a essere eterosessuali è sbagliatissima. Cioè quando noi, per esempio, che è un'idea che certe volte ha delle buone ragioni, quando noi diciamo siamo tutti uguali, omosessuali e eterosessuali, siamo tutti uguali, certe volte diciamo anche una cosa che non va bene, cioè diciamo anche che non ci sono problemi ad essere, no, ci sono parecchi più problemi ad essere omosessuali. Per esempio, per essere felici da omosessuali è molto più difficile. E ci torniamo su questa cosa qui, perché diamo noi invece vogliamo, esatto, vogliamo aiutare a andare oltre, appunto, e a provare ad andare verso la felicità. Diamo i numeri. Allora, un appello, mamme, babbi, figli, figlie, amici di babbi, di mamme, di figlie, insomma, dateci una mano per questa trasmissione. Ci piacerebbe avere i vostri interventi via SMS al 333 180 94 94 oppure via telefono 051 34 64 58. Manda la musica. Pronto, è musica. Cosa ci manda? O Capper Kyle direttamente dalla Scozia. Wow. Hokio, I'm in the making. Hokio, I'm in the making. Hokio. Dixie. Si rientra in studio alle 13:23 minuti di questo mercoledì 30 ottobre. Oltre la crisi è arrivato alla quarta puntata. Le tematiche che stiamo trattando sono di grande attualità e di grande importanza, riferendosi all'ultimo episodio, ultimo purtroppo di una lunga serie, troppo lunga serie, di ragazzi adolescenti che decidono in maniera tragica di togliersi la vita piuttosto che continuare a essere vessati semplicemente per un orientamento sessuale. Questo è da molto da pensare, da molti spunti di discussione. Tra l'altro stiamo aspettando anche i vostri contributi al 333-180-9494 oppure al nostro telefono a microfono aperto al 051-34-6458. Allora io pensavo... l'argomento oggi è, lo ricordiamo per chi si fosse messo certo in ascolto da poco, oltre la crisi... dell'omofobia. Vogliamo dire che la crisi in questo caso l'abbiamo identificata come il guaio è nell'omofobia. Certo. Vai, a tale proposito, infatti, grazie Francesca per la precisazione, omofobia e cerco, anche se faccio una fatica incredibile, non ci riuscirò mai a mettermi nei panni anche di chi ha il problema, e in sostanza mi trovo a dare una risposta a me stesso che è: chi se ne frega. Cioè, nel senso, il mio miglior amico ama un uomo, io amo una donna. E poi dopo magari usciamo in quattro a cena, oppure magari io e questo mio amico ci vediamo e andiamo a vedere una partita di pallacanestro e facciamo la nostra vita normale. Lui ama un uomo, chi se ne frega? Cosa mi sposta a me? Questo deve essere il naturale ragionamento, e da lì si parte, secondo me. Da lì poi nasce l'amicizia, da lì poi nasce la presa di posizione contro l'omofobia e via discorrendo. Ma il primo impatto è questo: frequenta un uomo, se sono felici, mi fa piacere per loro, lunga vita al loro normalissimo amore. Questo però non capita, e dire che è un ragionamento molto immediato e elementare. Sì, peccato che c'è un problema, e cioè che tu, quando hai un amico e quell'amico si comporta in un modo completamente diverso da te, c'è un problema di legittimazione reciproca, se siete amici, cioè se vivete nello stesso spazio vitale. Cioè nel momento in cui l'amico che è opposto a te ti dice che lui non vuole soltanto che tu te ne freghi, vuole che tu lo approvi, non che te ne freghi. Automaticamente facendogli fare la sua vita e intromettendomi, faccio la parte di quello che è la problematica, certo, anche se non è vero, nella sua vita intima, personale o di quello che fa nelle mura domestiche, automaticamente è un'approvazione. Sì, ma se tu, per esempio, avessi paura di diventare così come lui... No, per esempio, perché io so cosa mi piace. Perché la fobia, questo è... Cioè, non è che dobbiamo dimenticare l'omofobia. Attenzione, l'omofobia è una fobia. Che cos'è la fobia? La fobia, rispetto alla paura, è una paura, ma è una paura di un fantasma. È la paura non di una cosa vera. Le fobie sono... Allora, bisogna stare attenti. Cioè, quello lì che è l'omofobo è uno che non sa gestirsi il fatto che convive nello stesso spazio vitale, per esempio con un amico, no? Che gli dice che si potrebbe essere diversi, e questa possibilità per lui è una cosa che lo angoscia, è un fantasma. Cioè, il mio amico mi dice che io potrei baciarlo, e a questa cosa qui, il fatto che io potrei baciarlo, mi angoscia. Sì, ma non lo sta costringendo a baciarlo. No, ma non c'entra questo, non c'entra questo. È il fatto che un altro che ti dice che si può essere in un modo diverso dal tuo ti fa immaginare di essere diverso, e tu potresti, per esempio, una volta uno mi ha spiegato che lui non è che ce l'ha con gli omosessuali, ma lui semplicemente, quando vede un omosessuale, gli si torcono le budella. Perché? Beh, perché? Gli si torcono le budella, perché lui, al solo immaginare di poter toccare un genitale simile al suo, o di poter baciare uno del suo sesso, impazzisce a quel pensiero. Allora, quella, cioè, ha una fobia. l'altro con la sua presenza di diverso da te ti presentifica. Attenzione, se non capiamo questo non possiamo parlare con l'omofobo. L'omofobo è uno, infatti per me è una realtà molto lontana. È bravo perché tu dici, tu infatti dici che me ne frega, ma non è così. Il problema è che l'omofobo è proprio colui a cui bisogna parlare per cambiare l'omofobia, non fare una legge, perché non serve a niente. Per legge nessuno si convincerà a superare l'omofobia, perché la fobia è semplicemente un aspetto nevrotico dell'essere umano, cioè uno che vede un altro diverso gli ripugna, sente ripugnanza per quella cosa lì, teme che possa accadere anche a lui e sviluppa una fobia. Dopodiché tutte le volte che vede un omosessuale deve dire a distanza da me. C'è un proverbio siciliano terrificante che dice a un palmo del mio culo succeda quel che succede. È terribile. È talmente terribile che è comico. A un palmo del mio culo può succedere, basta che ci sia la distanza. Allora il problema è che certe volte l'omofobo è proprio quello per cui quella distanza è stata abbattuta. Mm-mm. Ma perché il discorso è questo? È delicato questo argomento. Parlavamo di amici e ok, però questa cosa, e anche il proverbio terribile, però ha un suo senso. Però c'è anche il discorso che poi questa fobia si scatena anche sull'estraneo, che sta anche molto lontano. Sì, ma perché non è questione di vicinanza fisica. Perché tu hai paura del fantasma, non hai paura di quell'omosessuale, ma hai paura che succeda a te. Quindi o vicino o lontano è lo stesso. Ma se uno ha paura che succeda a lui, è anche un'insicurezza del suo orientamento. Bravissimo. Certo, infatti è molto diffusa nella cultura omosessuale il sospetto che quelli che più ce l'hanno con te sono quelli che hanno qualche sfumatura in più di quel tipo. Nella cultura omosessuale è molto diffusa questa convinzione. Forse anche e vero. Questo sospetto. Certe volte è vero. Perché? Perché guardate che l'eterosessualità, cioè il distinguersi ed essere etero, si basa spessissimo sulla aver fatto un processo che è il processo educativo della genitalità, che ti fa perdere quelle attrazioni che tu da bambino avevi e che in definitiva però nel sottofondo ti restano. Se il bambino è un perverso polimorfo, vuol dire che noi da bambini eravamo tutti ben più che omosessuali. È chiaro? Vuol dire questo. Ma questo non si supera con l'educazione del tutto. Qualcosa resta. Allora, quelli in cui resta di più, cioè quelli che l'hanno superato, perché guardate che ci sono certuni che diventano etero, no? Proprio attraverso l'affermare il fatto che non sono omo. Ah, ok. Ci sono tanti che diventano, per esempio, il gallismo, il fatto di mettersi insieme tutti quanti maschi cameratismo, e prendere dire. In giro gli omosessuali, è un modo per diventare etero distinguendosi dagli omo. Ma se tu diventi etero distinguendoti dagli omo, vuol dire che tu in qualche modo lo eri. Infatti, la verità della psiche umana è che noi possiamo essere tutto. Certo. Cioè noi, in definitiva, la nostra natura, come dice anche Platone nel Simposio, è ermafrodita. No, la nostra natura non è etero, noi diventiamo etero attraverso l'educazione, o diventiamo omosessuali attraverso il fallimento di un'educazione, dell'educazione genitale. No? Certo. Ma non siamo... C'è un fondo in noi che è un fondo di un altro tipo. Per cui, in definitiva... superare l'omofobia vuol dire guarire l'omofobo, vuol dire aiutarlo ad andare oltre quella cosa lì che è un portato della sua educazione. Certo. Noi però dobbiamo... Mentre vado a scrivere su Facebook che ho scoperto di essere una perversa polimorfa. Beh, complimenti. Manda la pubblicità, va? Due note di Bill Evans e poi pubblicità. E poi rientriamo. Thank you. State ascoltando Radio Città Fujiko. Radio Città Fujiko 103.1 FM. State ascoltando Radio Città Fujiko. Radio Città Fujiko 103.1 FM. Oltre la crisi, argomento importante in questo caso di una delle metastasi che purtroppo avvolge il mondo, oltre la crisi dell'omofobia. E quindi invece che fare delle chiacchiere fuori onda le faremo in diretta da adesso in avanti. Beh, io intanto richiamo l'appello a telefonarci. Giusto. A mandarci sms, casi di omofobia a cui avete assistito, di cui siete stati protagonisti, domande che volete fare a Francesco Campione, insomma tutto quello che volete. 333 180 94 94 per farle via sms o whatsapp, 051 34 64 58 per farle in diretta. Ricordiamo anche una cosa, che il ventre sempre gravido di queste caratteristiche è, essendo una cosa che si sviluppa sin da piccoli, secondo me è poi alimentato dal cosiddetto bullismo, nonnismo e quant'altro, probabilmente, che è una cosa da andare a estirpare dalla radice in una società che vogliamo tra virgolette ideale, probabilmente, almeno questo è il mio pensiero. Sì, sì, ci sono dei nessi. Ci sono certamente dei nessi. Il problema, secondo me, è che finché noi pensiamo che siano cose da estirpare, le rafforziamo. Secondo me. Cioè, secondo me, così come con l'omofobia, così come con la violenza in generale, quindi con le forme di violenza anche attinenti, il bullismo, quello che si diceva prima, l'errore della nostra cultura, che poi non è un errore perché facendo così si conferma, ecco, per esempio noi certe volte confermiamo tutto il peggio della omofobia combattendo l'omofobia con gli stessi pregiudizi con cui l'omofobia combatte l'omosessualità. E quindi diciamolo meglio. Cioè, diciamo, andiamo più nel sì, diciamolo mi meglio. Piace questo diciamolo questo meglio, diciamolo pezzo meglio. Che cioè noi, come dire, l'omofobo ce l'ha con l'omosessuale e noi pensiamo che sia sbagliato, è sbagliatissimo, d'accordo? Il problema è che se noi non consideriamo le ragioni vere, non scopriamo quali sono le vere ragioni dell'omofobo, non potremo mai superare l'omofobia. Come si esprime questo fatto qui? Che noi combattiamo l'omofobia prima di averla capita. Cioè con un pregiudizio. Noi abbiamo un pregiudizio, così come gli omofobi hanno un pregiudizio negativo nei confronti degli omosessuali, noi abbiamo un pregiudizio, si può avere un pregiudizio negativo nei confronti degli omofobi. Per esempio, potrebbero essere malati e noi invece li consideriamo da un punto di vista morale. Se sono malati, sono da curare, non sono da estirpare. Se un comportamento è un comportamento che deriva da una sbagliata educazione sbagliata, da un modo sbagliato di gestirsi le proprie emozioni e così via, noi abbiamo una probabilità di superarla, quella cosa lì, se passiamo attraverso la complessità delle vere ragioni per cui uno si comporta così. Ma se siamo superficiali e facciamo e ci indigni, per esempio, ci indigniamo nei confronti dell'omofobo, no? Nei confronti dell'omofobia, e diciamo no, basta l'omofobia, e diciamo solo quello, non c'è pericolo, allora rafforziamo l'omofobia, perché diamo all'omofobo altri motivi per affermare quello che è il suo comportamento, perché dall'altra parte chi l'ha giudicato non l'ha capito. Uno che non si sente capito si rafforza nel suo comportamento. Ecco, ti leggo un SMS che è appena arrivato, perché secondo me si inserisce bene in questo ragionamento che stai facendo, perché è un SMS provocatorio, giustamente, e dice: le società ideali, tra virgolette, sono nazi comuniste, e si infila proprio in quello che stavi dicendo. Cosa possiamo dire in merito? Direi che non ci sono solo società ideali nazi comuniste, perché io ho i miei ideali e non mi immagino né il nazismo né il comunismo, e ci sono tanti altri. Però c'è un grado di verità in questo, c'è un grado di verità nel senso che, come dire, quando l'ideale diventa astratto, cioè va oltre la realtà delle persone. Per esempio, se noi abbiamo l'ideale di una società in cui gli eterosessuali e gli omosessuali vivono in un'armonia perfetta, d'accordo? Questo ideale qui, se non lo raggiungiamo attraverso una profonda trasformazione delle relazioni umane, si può realizzare solo col nazismo o col comunismo. Si può realizzare solo con una dittatura. Ma in un certo senso però posso dire una cosa. L'armonia, anche l'omofobia nasce quello di cui stiamo parlando oggi, cioè l'educazione genitale, come l'hai definita tu, nasce comunque da un atteggiamento di questo tipo. Perché lo dicevamo prima, no? Si viene educati secondo una via che è quella così considerata della maggioranza, quindi è già così in realtà o no? No, perché per fortuna ci sono una dittatura. Per fortuna culturale. Ci sono un tot di persone che sono gli omosessuali, che sono la dimostrazione pratica che non c'è la dittatura. Poi come li trattiamo? Significa che li trattiamo più o meno democraticamente. Per cui sotto il comunismo li mettevano al manicomio, no? Nel nazismo addirittura Hitler aveva ordinato di fare l'eutanasia dei matti, no? E degli omosessuali di una serie interminabile. Cioè può essere. Allora, però no, da noi però non è così. Da noi, per esempio, c'è la possibilità di parlarne e di stabilire che anche le minoranze hanno dei diritti, che li dobbiamo trattare in un certo modo, rispettosamente. Possiamo per esempio educare i bambini a trattarli in un certo modo. Naturalmente il problema è, c'è un problema di fondo, che è il problema: come fanno a convivere nello stesso spazio vitale due scelte, che sono due scelte che quando si incontrano potrebbero darsi qualche problema, che naturalmente riguarda il problema del rapporto tra gli omosessuali e gli eterosessuali, ma riguarda il problema di tutti i diversi, tutti i diversi, cioè riguarda il problema dell'altro, il problema del rapporto con l'altro. Allora, nella nostra, per esempio, nella democrazia, come viene gestito il rapporto con l'altro? No? L'altro è accettabile se, e quindi non è minaccioso, e quindi non bisogna reprimerlo, no? Se rispetta le leggi, d'accordo? Ma quelle leggi sono leggi uguali per tutti o sono leggi che discriminano? Se sono leggi che discriminano, si devono cambiare. Dopodiché però resta il fatto che tu devi rispettare le leggi. In una società anarchica, in una cultura anarchica, le cose potrebbero stare in un modo completamente diverso. Cioè, noi potremmo pensare, per esempio, che senza bisogno di leggi, di regole, di sanzioni, si possa vivere in armonia lo stesso. Allora, qui dobbiamo, come dire, interrogarci su questo. C'è chi, per esempio, ispirandosi al mito del buon selvaggio di russoiana memoria, dice che noi abbiamo rovinato l'uomo che in natura riesce ad armonizzare le sue varie parti, l'abbiamo rovinato con la cultura e con la società e con la storia, e c'è chi invece dice che senza cultura, società e storia l'uomo sarebbe rimasto una bestia. Questo si infila, e in questo discorso si inserisce il secondo sms che ci arriva da Andrea Agnostico, si firma così: l'uomo convive con i suoi bisogni bioculturali. Esattamente il ragionamento che stiamo facendo, però appunto bisogna capire quali sono i suoi bisogni bioculturali, perché c'è chi pensa che i bisogni bioculturali siano in una sola direzione, altri che sono un po' più, come dire, aperti come ragionamento e pensano che i bisogni bioculturali possano essere anche individuali, per poi condividerli a livello sociale. Certo, certo, ma io, come dire, aggiungerei a questa, a queste due dimensioni, la dimensione biologica e quella culturale, una terza dimensione, cioè la dimensione sociale, no? Perché altrimenti noi, come dire, nel mondo di oggi, spesso assistiamo a un conflitto senza fine fra ciò che è naturale, cioè tra ciò che ognuno di noi sente come più forte di lui o di lei, e ciò che invece si deve fare perché si vive in una certa cultura che ha certe convenzioni, una certa morale, certe abitudini, certe consuetudini, certi bisogni e così via. Io ci metterei una terza dimensione, che è la dimensione sociale, cioè nel momento in cui, per esempio, noi constatiamo, torniamo al nostro tema, constatiamo che c'è un conflitto tra una maggioranza etero e una minoranza omosessuale, no? E scopriamo che il conflitto è un conflitto che non è solo un conflitto tra la natura e la cultura, perché non è che gli omosessuali sono natura e gli eterosessuali sono cultura, cioè quello che è diventato attraverso l'educazione. No, anche gli omosessuali sono diventati omosessuali attraverso, influisce anche l'educazione nel diventare omosessuali, no? Allora si tratta di un conflitto tra natura e cultura che attraversa entrambi, ce l'hanno entrambi questo conflitto. Allora l'idea, secondo me, quello che manca è aiutare queste due, questa maggioranza e questa minoranza che devono convivere, a parlarsi e a cercare di capire come organizzare la società in modo tale che la possibile convivenza si sviluppi. Quello che manca è questo: noi vorremmo, per esempio, gli eterosessuali vorrebbero che gli omosessuali non ci fossero, gli omosessuali vorrebbero essere accettati in 5 minuti. Non è possibile così, cioè bisogna che ci si parli, perché ci sono delle buone ragioni da una parte e dall'altra, però se sono opposte è chiaro che ci sono anche delle cattive ragioni da una parte e dall'altra. Tra l'altro ti collego sempre al post che citavamo prima di Vincenzo Branà, proprio all'inizio del suo post dice una cosa che va in questa direzione. Dice: il dibattito è bello, importante, anzi fondamentale. Apposta organizziamo numerosi momenti di incontro nell'ambito del festival, ma chi vuole protestare ai dibattiti non viene mai. Preferisce strapparsi le vesti o fare della teologia da marciapiede o dei moralismi, eccetera, eccetera. A volte anche degli eccessi e violenti, quindi, ecco, aggiungerei. Bravo. Perché se io sono omofobo non vado a un incontro organizzato da Gender Bender a portare le mie ragioni per vedere di incontrarsi, come dicevi tu appunto, ma perché gli omosessuali devono organizzare insieme agli omofobi l'incontro? Perché se è un incontro tra omosessuali, gli omofobi non ci vanno. È certo. Giusto che non ci vadano. Il problema è che bisogna organizzare delle cose insieme per parlarsi. È chiaro? Cioè, è vero, a quegli incontri là le persone non ci vanno, no? Allora, il problema, quando ci sono delle diversità, e stiamo parlando di una grande diversità nella nostra cultura, il problema è riuscire a scambiarsi le parti. Cioè, gli omosessuali dovrebbero organizzare incontri per gli eterosessuali e gli eterosessuali incontri per gli omosessuali. Non gli eterosessuali per gli etero e gli omosessuali per gli omo, perché se no significa che sono incontri identitari. Ci si continua a dare ragione adesso da solo. Questo nel caso del festival, no, sì, ma in realtà già avviene questo. Ma è giustissimo questo, no, ma questo è giustissimo, perché il problema è che nel momento in cui si incontrano parlano due lingue diverse, hanno due educazioni diverse, quanto tempo ci vuole per riuscire a parlarsi? Bisogna, come dire, avere molta pazienza da questo punto di vista. Per cui, per esempio, impostare il problema del superamento dell'omofobia e dei diritti degli omosessuali, appunto in termini di rivendicazione di diritti, secondo me è un vicolo cieco. È un vicolo cieco. Perché, come dire, si tratta appunto di una minoranza che cerca di affermare i suoi diritti di fronte a una maggioranza che non glielo vorrebbe dare, e l'unica cosa che gli resta da fare non è parlare, ma fare lobby. Fare lobby. Perché l'unica possibilità per una minoranza di farsi riconoscere è fare, e infatti, diciamolo pure, come va detto, ci sono, oggi c'è l'idea in generale che gli omosessuali sono una lobby. Beh, quando non si ha argomenti, che spesso si definiscono così. Aspetta, no, ma è un pregiudizio. È un pregiudizio. No, è un grosso pregiudizio. Però certe volte l'unica possibilità che hai è quella. Sì, quando non si hanno più argomenti si dice quello. È questo che voglio dire. E fa poi scappare da ridere, perché non capisco che privilegi abbia sta lobby. No, ma anche dall'altra parte, anche dalla parte di chi è minoranza, non ti resta che fare, il che vuol dire che alla fine usi lo stesso metodo di quello che ti discrimina. Cioè, siamo di nuovo, allora il problema è giustissima quella cosa lì, non vengono, perché non vengono e preferiscono dire le loro cazzate per conto loro? E certo, perché le vie del parlarsi sono identitarie, non si parla con i diversi, nella nostra cultura si parla con quelli che sono uguali. La nostra cultura è caratterizzata dal fatto che tu vai dove ci sono quelli come te, non vai dove ci sono quelli diversi da te. È precisamente caratterizzata da questo la nostra cultura, cioè una cultura identitaria. Allora, il punto è come si fa a favorire invece l'incontro in modo tale che effettivamente ci si possa parlare, no? Io per esempio sono convintissimo che il mio amico, cioè io ho un amico che è assolutamente eterosessuale, l'omofobo più straordinario che ci possa essere al mondo, sono convintissimo, se lui finalmente, un omosessuale di quelli che dico io, dolce, un artista, di quelli con una grande cultura, che sa cucinare, eccetera, lui viene conquistato. Diventano amici inseparabili. Ma il problema è che non si incontrano. Io però prima di chiudere vorrei anche riportare, perché ormai ci siamo, sì, quasi, siamo in chiusura, purtroppo, però possiamo continuare anche la prossima volta volendo. Vorrei portare, visto che noi abbiamo sempre detto che queste puntate sono anche legate a un discorso di fare comunità intorno alle questioni che affrontiamo per superarle insieme, la comunità in sé, cioè noi tutti, che cosa possiamo fare in questo senso? Perché un omofobo che si rende conto di avere un problema viene in studio da te, faccio per dire, o da chiunque altro, e parte un cammino magari individuale o anche di gruppo, però deve avere la spinta, l'intenzione, deve riconoscere che ha un problema. Il problema è invece quello che mi chiedo io è come tutti noi, davanti a persone che non sono nella fase di non riconoscere di avere un problema, come ci possiamo muovere come comunità, e per proteggere gli uni, per fare, come dire, proteggere è una parola sbagliata, per fare massa intorno agli uni e anche intorno agli altri, per superare invece una fobia. Sì, ma secondo me l'ostacolo più profondo in tutte le difficoltà di incontro tra diversi e sta nel fatto che noi, quando incontriamo un altro diverso, ci basiamo su quello che sappiamo di lui. Noi dovremmo cominciare a imparare a basarci su ciò che non sappiamo. Questo è il vero punto importante della comunità. Cioè, se tu che ne sai di cosa vuol dire essere un omosessuale? Non c'è nessuno come un eterosessuale che pensa di saperlo. E tu che ne sai che sei un omosessuale, cosa vuol dire un eterosessuale? Non lo sai. Sono molte di più le cose che non sai che le cose che sai. Però quando ci incontriamo, in realtà ci incontriamo già in difesa, vuol dire. Ci incontriamo già con la maschera di chi pensa di sapere quello che l'altro dirà o che sta facendo. Cioè ci incontriamo in difesa, ci incontriamo pensando che sia minaccioso quell'altro. Allora il problema della comunità nell'incontro tra diversi è sempre così, tra vecchi e giovani è così, tra quelli di un quartiere, tra ricchi e poveri è così, fra eterosessuali e omosessuali è così, è tutto così. Cioè quello che ostacola è il fatto che noi siamo una cultura che si basa precisamente sul sapere. In realtà quando si incontra un'altra persona sono molto di più le cose che non si sanno che le cose che si sanno. Ecco, allora questo è quello a cui dovremmo, per esempio, se noi educassimo i bambini, no, non a sapere già qualcosa, essere preparati quando incontrano qualcuno, ma li educassimo a pensare che è meglio basarsi su quello che non si sa, i bambini imparerebbero un'altra cosa nel rapporto con l'altro, no? Noi invece, facendo così, gli insegniamo che l'altro è minaccioso. Tu stai dicendo passare una sorta di educazione all'ascolto. Esatto. E con gli adulti come facciamo? Perché è vero che se Vincenzo, per esempio, organizza un incontro dentro Gender Band, gli omofobi non ci vanno, ma io sono convinta che se il Cassero, per dire, organizzasse un incontro pubblico in sala Farnese, quindi luogo neutro, eccetera, eccetera, parliamone, oltre alla crisi parliamone, comunque non ci sarebbero... Sì, dovrebbe invitare il più grande omofobo della storia e rispettarlo. Ah, certo. Il problema è solo lì. Dovrebbe invitare, certo, il più grande omofobo della storia e rispettarlo. E poi avviare un confronto. E poi avviare un confronto. E poi avviare un confronto. E quello lì che ci va dovrebbe andarci rispettando quegli altri di cui non condivide la scelta. Solo così ci si può parlare. Se invece uno, come dire, è impegnato a difendere la propria identità, non ci può parlare con un altro che è diverso. No. Ma come fa, scusami, è l'ultima domanda, un omofobo che abbiamo detto ha una fobia, potrebbe essere la, certo, fobia di qualsiasi cosa, in questo caso, certo, parliamo dell'omofobo, come fa a essere aperto all'ascolto se è impegnato a gestire la sua fobia? Perché nella sua omofobia tutti lo rispettano. Perché viene messo a suo agio, lui dice. Se tutti ti rispettano la tua omofobia, tu ne parli, eh? Se tutti ti dicono che non va bene, tu ti devi nascondere. Oppure minacciare. Oppure fare la faccia feroce. Minacciare. Oppure minacciare, certo, oppure diventare violento. Cioè quello che fa diventare violenti o che fa nascondere è proprio questo, no? Lì volevo arrivare. E visto che ci siamo arrivati, è arrivata anche alle due, esatto. Siamo arrivati alle due, si chiude qui. Ci torneremo su questo argomento perché non credo che... Non l'abbiamo certo esaurito. Non l'abbiamo esaurito e abbiamo ancora tante cose da dire. Diamo appuntamento a mercoledì prossimo. Mercoledì prossimo con Oltre la crisi parliamone. Sto per caricare i podcast sulla pagina della trasmissione. E quindi, buon pomeriggio a tutti. E restate sui 103.1. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Oltre la crisi parliamone. In studio il professor Francesco Campione.